No. Buongiorno. No, è sbagliato ingresso. Prego. Cercavo dottor dell'acqua. Sì, penso che in una città che è la somma dei suoi rioni, il disagio che Roveredo racconta nelle sue opere ha avuto a lungo una capitale morale nel rione di San Giovanni. Il comprensorio, come veniva chiamato all'inizio del Novecento dal suo architetto Ludovico Braidotti, serviva a contenere all'interno di una cinta muraria quello che 100 anni fa era a ragione definito un grande e innovativo asilo per alienati, il manicomio. La via principale di quello che oggi è invece una sorta di quartiere parco è intitolata a Edoardo Weiss, allievo triestino di Freud che introdusse la psicanalisi in Italia. E al numero civico 5 trovo l'ufficio del direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Beppe Dell'Acqua. A fine degli anni 70 ci sono circa 65-70 ospedali psichiatrici. Dico 65-70 perché alcuni sono privati o di benefattori, tipo il tristemente famoso Bisceglie, Divina Provvidenza, e ci sono circa 120.000 persone. Al manicomio di San Giovanni arriva nel 1971 Franco Basaglia. Proviene da Gorizia e porta con sé un'idea nuova. Per curare le persone non serve rinchiuderle e privarle dei loro diritti civili. Basaglia e il gruppo di psichiatria democratica vuole abolire i manicomi lager, abbattere la barriera tra manicomi e città, tra malati mentali e società dei sani. Nel maggio del 1978 la legge 180 ne distilla il pensiero. È la fine della missione nei manicomi, la fine della costruzione degli ospedali psichiatrici. Una legge rivoluzionaria che Norberto Bobbio definirà l'unica legge di riforma del nostro paese. Il dottor Dell'Acqua parla con passione del suo lavoro, delle persone che segue e dei suoi colleghi. Non cerca di nascondere le difficoltà del progetto di Basaglia. È un'idea ambiziosa, ma di cui è profondamente convinto e che difende. E questa è una cosa che purtroppo in maniera capziosa, ambigua, non si è mai voluto capire in Italia, no? Perché si è sempre detto che la legge 180 è quel servizio che non funziona, no? Come se io dicessi che il diritto allo studio, no? Il fatto che tutti noi abbiamo diritto ad andare a scuola, anzi il dovere ad andare a scuola a 6 anni, è responsabile di quella scuola, adesso ho detto sgarrubato e mi è venuto in mente, di Arzano con i muri cadenti e con gli insegnanti che vanno a fare la spesa durante la lezione o che sono. Il suo ufficio è semplice e bellissimo. È all'interno di una palazzina adibita un tempo a padiglione degli infermi. Al posto dei letti di ferro, oggi ci sono poltrone e tanti libri. I soffitti sono altissimi, alimentano l'eco. Le grandi finestre riquadrate in 6 ante si aprono sul bosco. Beppe Dell'Acqua è arrivato anni fa qui a Trieste da Salerno per unirsi ai seguaci di Basaglia e di quel tempo sembra non aver perso il rispetto per un'idea che ancora oggi è difficile per tutti noi accettare pienamente. Il coinvolgimento radicale delle cose. La legge 180 dice le persone con disturbo mentale sono cittadini, in quanto tali hanno diritti. In particolare il diritto alla cura e il diritto alla salute, così come l'articolo 32, così come la legge 833. E siccome hanno diritto alla cura e alla salute, può accadere che nel corso della vita un cittadino non abbia consapevolezza di questo diritto e non sia in grado di accedere a questo diritto, io, Stato, mi adopero, nel rispetto, come dice la Costituzione, della dignità e della libertà, di sostenere questo tuo diritto. Quindi io ti curo anche obbligatoriamente, intanto non ti tolgo il diritto a ereditare, a sposare, a votare, semplicemente compio questo atto iniziale di cura. Perché? Perché è mio compito garantire i diritti ai cittadini. Quindi non ti curo obbligatoriamente perché tu sei rischio, pericolo per l'organizzazione sociale. Quindi questa è l'unica cosa che dice questa legge, non dice altro. Con questo siamo arrivati alla fine di questa 7ª tappa del viaggio in Italia. Lasciamo Trieste, rientriamo verso il nord-ovest. Un ringraziamento come di consueto a Chiara Albicocco per l'assistenza in redazione, a Carmelo Lauricella che ha realizzato in regia questa puntata. Un saluto da parte mia, l'appuntamento con il viaggio in Italia, come al solito, il sabato alle 21, la domenica alle 11:30. A presto!